5 anni fa la Puglia ha detto no a Fitto, ha detto no al centrodestra, si è ribellata a una lunga epoca di stagnazione culturale, civile, economica. 5 anni dopo la Puglia ha preso confidenza col progetto di Vendola, una parte enorme della Puglia si è affezionata all'idea della buona politica che abbiamo cominciato a costruire, ci crede, fa un investimento forte sul centro-sinistra e un investimento ancora più forte sulla mia persona che mi carica di grandi responsabilità. La Puglia è sempre stato, diciamo, un laboratorio della politica. In questi anni è diventato anche un laboratorio dal punto di vista del modello di sviluppo e del modello sociale. La lotta contro i veleni e per l'ambiente, la lotta contro la precarietà hanno fatto, diciamo, della nostra azione di governo qualcosa di anomalo, qualcosa di speciale. Anche dentro al centro-sinistra c'è qualcosa di speciale che proviene dalla Puglia.